In a moment, we'll follow Sarah when she goes to reception to hand in her room key. But first, some new words and phrases. Ascolti e ripeta. Buona giornata. Have a good day. Buona giornata. Un bancomat. A cash point. Un bancomat. Vediamo. Let's see. Vediamo. Qui vicino. Near here. Qui vicino. Here's that language again. Buona giornata. Vediamo. Qui vicino. Un bancomat. Ed ora ascolti il dialogo.